Siamo al telefono con Divi dei Ministri. Intanto, ciao Divi, è un grande piacere, un grande onore, insomma, fare due chiacchiere con te. Come stai? Grazie mille, tutto bene, tutto molto bene. E si è ripartiti a sprombattuto, quindi ancora più felici del solito. Ecco, siete in tour con Aurora Popolare, il nuovo album. Passerete anche il 15 novembre qui dall'Estragon di Bologna. Avete già toccato un po' di città, ne avrete tante altre. Come sta andando questa prima parte di tour? Beh, devo dire, è stata una cosiddetta partenza col botto, nel senso che abbiamo scelto come profilo comunque quello di muoverci nei grandi club o comunque nei club il più possibile, per evitare appunto anche di disperdere troppa energia, ecco, su grossi palchi. Preferiamo ripetere lo show anche per acquisire proprio capacità tecnica e migliorare lo spettacolo show dopo show, che è la cosa che ci piace anche di più, insomma, ritornare a suonare in gran quantità, cosa che ultimamente vediamo latitare, ecco, il quantitativo dei concerti più a favore delle grandi situazioni musicali. Quindi assolutamente è una partenza che descrive proprio in pieno la nostra attitudine, per cui siamo felicissimi. Lo dicevamo, in tour per l'ultimo album, Aurora Popolare, che un po' come quasi tutti i dischi dei Ministri, diciamo che il vostro modo di raccontare la società, l'umanità, è un po' velata da un po' di pessimismo, un po' di disillusione. Ecco, quali sono i temi, le tematiche che affrontate dentro questo ultimo album? Ma sì, in realtà, guarda, è un disco che per noi è l'ottava fatica, quindi come puoi immaginare, dopo così tanti dischi fatti, sono stati anche tanti tentativi e le direzioni che abbiamo intrapreso. Abbiamo cercato magari anche a un certo punto più di assecondare una situazione musicale che stava attorno a noi in un certo periodo. Ecco, in questo disco abbiamo voluto un po' sospendere l'inquinamento acustico che avevamo intorno e ripartire un po' da un sano, diciamo, motore che potesse essere un po' simile all'urgenza che abbiamo avuto agli esordi, chiaramente filtrato oramai da tutta l'esperienza che però abbiamo acquisito in oramai 20 anni di comunque percorso artistico. Quindi ovviamente c'è una maturità che sentiamo comunque da dover esprimere e soprattutto, ecco, una responsabilità. Questa cosa, diciamo che sicuramente si palesa ai noi per i tempi che abbiamo comunque attraversato in questi 20 anni, in un profondo senso di disillusione, che però al tempo stesso, ecco, non vuole diventare un po' ricattatorio. Cioè, noi pensiamo che comunque la nostra generazione, se è vero che ha perso le sue battaglie, sicuramente non siamo stati aiutati dalla generazione precedente, non deve fare lo stesso errore con chi verrà dopo. E quello che stiamo vedendo è che comunque questo il famoso modo un po' adagio del vecchio è ai miei tempi, sì, però ai tuoi tempi il mondo sarà stato meglio o peggio, ma con quel mondo che sta venendo fuori non sarà di sicuro migliore di quello che hai vissuto tu. Ecco, io vorrei invece far qualcosa, offrire degli strumenti con questo disco che possano tutto sommato regalare speranza anche alle prossime generazioni e togliere quell'invidia generazionale invece alla nostra di generazione, che comunque possa in qualche modo sentirsi responsabile e anche artefice di un futuro per le generazioni che verranno. Urca, ecco, questo è un augurio, un consiglio, un augurio, non so come vogliamo chiamarlo, è molto sì sì molto più un augurio. Guarda, cioè, per me il disco ha questa, diciamo, continua, come dire, comunione tra, è vero, profonda disillusione, ma al tempo stesso anche forte speranza. Penso che sia necessario ogni tanto parlare anche della speranza, e sono successe anche delle cose ultimamente che ce le hanno anche portata sotto gli occhi questa speranza. Per cui poi ovviamente ci vuole anche costanza, perché la speranza diventi con la S maiuscola. Però ecco, rifugiarsi un po' in questo vittimismo generazionale, per quel che riguarda soprattutto la mia di generazione, è un grande errore, secondo me, è un fardello di cui dobbiamo liberarci abbastanza alla svesca. Bene, grazie per queste parole, Divi, che credo siano molto, molto importanti. E parlando invece dello stato del rock, no? Voi siete in giro da 20 anni, perché è 2006, ormai siamo quasi nel 2026. Siete una delle band rock più importanti del panorama italiano, indubbiamente. A tuo avviso, qual è lo stato del rock oggi in Italia e rispetto anche magari a quando voi avete iniziato? Ma sicuramente è una dimensione musicale che è cambiata molto, ma perché è cambiata anche la musica in generale. Ci sono, diciamo, diversi discorsi che si possono fare, limitandolo semplicemente al rock. Secondo me il rock però non è una cosa che non esiste più, come spesso si dice, ma semplicemente ha perso un po' il riflettore che poteva avere in altri momenti storici proprio. Cioè, noi veniamo chiaramente da prima di essere musicisti, comunque da fenomeni di ascolto tipici degli anni 90, dove anche l'underground aveva un peso specifico sulla scena. Ecco, oggi diciamo che l'underground purtroppo sembra un po' l'esilio per le band emergenti che sperano in qualche modo che un giorno vengano notate da qualcuno. La verità è che secondo me il problema più importante è che questa cosa va un po' di pari passo con come viene gestita proprio la musica oggi. Una volta la musica la si andava veramente tanto a vedere i concerti, ed è vero che oggi la scena live va anche bene, ma va bene perché comunque è stata in qualche modo apparecchiata in grande stile da, insomma, delle grandi strutture che comunque in questo senso ci fanno business, e al tempo stesso comunque la fruizione della musica è cambiata molto, è diventata davvero un rapporto tra beni di consumo e consumatore. Una volta diciamo che l'artista aveva un peso specifico notevole, e credo, ecco, che la grande differenza soprattutto nel panorama rock è che bisognerebbe un pochettino inseguire meno il mercato musicale e assecondare comunque molto meno quello che succede intorno a noi e cercare più punti di rottura, perché è sempre stato un genere rock che tramite comunque i momenti di rottura ha trovato comunque pubblico al tempo stesso, e poi cambio generazionale. C'è sempre stato comunque uno scarto che ha fatto diventare anche iconiche le band che hanno comunque fatto quei passaggi, insomma. Ecco, a proposito di questo, tu oltre ad essere frontman dei Ministri, sei anche produttore, insomma, hai preso parte a dischi di altre band. Ecco, tra gli artisti con cui hai lavorato in questo senso, c'è qualcuno secondo te da attenzionare e che vale veramente, vale, insomma? Sì, sì, parecchi. In genere, diciamo, ho la fortuna di navigare molto nell'underground musicale. Devo dire, ultimamente mi sta dando tantissima soddisfazione una band della Brianza che si chiama Nova Eva, che hanno appunto una voce femminile come punta di diamante del cantato. Devo dire, ecco, che comunque ci sono anche altri progetti, per esempio una band che ci aprirà a Roma, che sono i Light Brown, che ho seguito personalmente. Insomma, ce ne sono tanti. L'importante, ecco, è ancora provare ad andare ai concerti, ma anche in quelli piccoli, evitare, ecco, un po' la FOMO di andare ai grandi eventi e di andare a cercarsi invece le piccole cose, perché ce ne sono tante anche molto interessanti, e al momento ne cito solo due. Ecco, sì, mantenere viva la curiosità. Noi ci proviamo un pochino con qua in radio a mettere delle cose anche poco conosciute, quindi speriamo che qualcosina magari riusciamo anche noi a far conoscere. Prima di salutarci c'è una amica e fan che voleva fare una domanda personale, che tu sei sposato? Sì, sì, sposato, io ho una fede al dito. No, vabbè, mi spiace perché poi qualcuno può anche sentirsi deluso da questa questa roba dell'essere sposati, ma in realtà sono cose che capitano, succedono nella vita. Una volta si evitava anche di dirle queste cose perché non faceva bene all'artista, ma oggigiorno ci si racconta in lungo e in largo, e a questo punto lo faccio anch'io. Sì, sono sposatissimo. E noi siamo sicuri che ti vorrà tantissimo bene lo stesso, anche se sei sposato. Anzi, sono sicuro che sarà sotto palco il 15 novembre all'Estra Conclave, ricordiamo, concerto dei Ministri. E Divi, io ti ringrazio tantissimo e ti chiedo una canzone da Aurora Popolare, appunto l'ultimo album, per salutarci e darci appuntamento al concerto. Ah, io scelgo Terre Promesse. Perfetto, e ci ascoltiamo Terre Promesse. Grazie mille, ci vediamo al concerto. A prestissimo.